Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Proseguono oggi le audizioni in Parlamento per i nuovi commissari della squadra che sarà guidata da Juncker dal 1 novembre. Oggi, fra gli altri, toccherà anche a Federica Mogherini, alta rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Unione Europea e vicepresidente della Commissione. Arrivano intanto dati poco confortanti sull'economia europea. Il PIL dell'Eurozona è previsto in aumento solo dello 0,8% nel 2014, mentre nel primo trimestre del 2015 è stimata una crescita dello 0,7%. Lo stimano IFO, INSEE e ISTAT nell'Economic Outlook dell'Eurozona. La ripresa dovrebbe essere trainata dalla domanda interna. In Francia hanno deciso lo sfondamento del tetto del 3% per investire in ricerca e scuola. L'Italia potrebbe fare lo stesso? Sentiamo la ministra dell'istruzione Stefania Giannini su questo al microfono di Giovanni Minoli a Mix 24. Ma io credo che sia un dibattito che deve essere aperto in Europa. Tant'è che nel semestre noi stiamo proponendo un Maastricht della ricerca, recuperando una bella proposta che fu fatta nel Parlamento europeo uscente. Quindi mettere il tema della ricerca al centro dell'agenda vuol dire dare anche una corsia preferenziale per quel tipo di investimento. Ma lei pensa che la battaglia in Europa è una battaglia persa oppure è una battaglia che si può fare? Insomma, la Merkel e Renzi stanno per salire sul ring oppure no? Ma guardi, la battaglia in Europa, con tutto il rispetto, non è quella della Merkel, di Renzi e dei leader politici soltanto, è quella di tutti decine di milioni di ragazzi che non la vedono come me, come lei, e nemmeno come la Merkel e come il presidente Renzi, ma sono convinti che l'Europa è il loro spazio. Quindi, ma quale Europa? Quale Europa? Perché questa è la discussione, è quella. L'Europa dell'Erasmus, l'Europa della mobilità, l'Europa dei voli low cost, l'Europa in cui nasci a Berlino, ti innamori a Lovanio, certo, e lavori a Parigi. Questo è l'Europa. Questa non è l'Europa che c'è. No, è un'Europa che va ancora costruita, dobbiamo essere molto onesti. Ecco. Allora lì il vertice tra Renzi e la Merkel è cruciale, ovviamente. Crollano gli investimenti pubblici in Italia come nel resto d'Europa per la crisi e i fondi europei per la coesione sono sempre più indispensabili. È quanto si legge nel sesto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale in Europa presentato oggi a cura di Confindustria e Commissione Europea. Alessandro Laterza, vicepresidente per il Mezzogiorno, politiche regionali di Confindustria, al microfono di Anna Marino. Il sesto rapporto sulla coesione della Commissione Europea individua due fatti essenziali. Il primo è che negli anni della grande crisi, 2008-2013, gli investimenti pubblici in tutta Europa sono caduti in maniera drammatica, soprattutto gli investimenti in conto capitale, quelli per infrastrutture, quelli che costruiscono il futuro, sono caduti anche in Italia. E il grande messaggio del secondo punto che emerge è che la politica di investimenti in Italia come in tutta Europa largamente dovrà far capo ai fondi per la coesione e le politiche per la coesione. L'Italia avrebbe bisogno non solo di fondi ma anche di politiche del territorio. Quali sono le entità di questi fondi e di queste politiche? Per quanto riguarda le politiche, ovviamente ci sono i programmi operativi regionali come i programmi operativi nazionali. Il vero problema è come tutto questo verrà messo in opera, e cioè bisogna risolvere molteplici episodi di inefficienza amministrativa, per cui addirittura per il 14-20 è previsto un obiettivo tematico specifico di rafforzamento della capacità amministrativa. Nuove regole per le specie invasive dell'Unione Europea. In Italia a causare danni maggiori sono soprattutto le nutrie e gli scoiattoli grigi americani. Milioni di euro all'anno. È quanto ci costano i danni causati dalle nutrie, animali solo apparentemente innocui. Come anche lo scoiattolo grigio, importato in Italia dal Nord America, che, in Piemonte, ma anche in Lombardia e Liguria, minaccia la sopravvivenza del nostro scoiattolo rosso, per la sua aggressività e le malattie, oltre a devastare noccioli e pioppi. Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore una normativa del Consiglio UE contro le specie infestanti. Piante e animali che non dovrebbero trovarsi nel nostro ecosistema, ma che sono arrivati in seguito a scambi commerciali o al trasporto. L'obiettivo delle nuove norme è proprio quello di proteggere la biodiversità dell'Europa, stilando una lista nera di piante e animali che danneggiano il nostro ambiente. Lista che verrà però discussa il prossimo anno. Un risultato importante che colma un vuoto riconosciuto da tempo. Così definisce la normativa il ministro europeo per l'ambiente, Janez Potocnik. In concreto, l'Italia dovrà impegnarsi a far sparire le colonie di animali nocivi e rendere più forte il divieto di commercio e possesso di tali specie. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.